terza. C'è che parla? Ti parlo dal profondo di te stessa. Chi sei? Sono il demone, racchiuso nella tua anima. L'adrenalina che ti scorre nelle vene nei momenti di paura. Cosa vuoi da me? Sono qui per distruggere tutto quello per cui tu lotti. Per installare solo la sofferenza nel tuo cuore. Ti renderò schiava di me. Non ci riuscirai. Proverai sensazioni più raccapriccianti, una devastazione che ti crea nella testa. Non sei niente dinanzi a me. Invece sì. Non sei altro che polvere. Questo è il male che ti porta il sentimento più acceso in te. L'odio.